Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Fini querela il giornale di Feltri dopo gli articoli su di lui e l'annuncio di presunti dossier a luci rosse. Oggi a Onna consegna delle prime 100 case con speciale TV a Porta a Porta. Franceschini attacca, non andrò alla puntata del 23 settembre. Redditi online nella pubblica amministrazione, scade oggi il termine posto da Brunetta. A Milano però spariscono i dati. Calcio, Juve e Milan, esame di francese, esordio per Ferrara e Leonardo in Champions League. Una buona giornata da Alessio Maurizi e dalla redazione. Resta dunque alta la tensione nel centrodestra dopo l'attacco del giornale di Feltri al presidente della Camera. Gianfranco Fini ha infatti deciso di querelare il giornale della famiglia Berlusconi proprio nel giorno in cui una apertura alle tesi politiche di Fini era arrivata dal ministro Tremonti. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Buongiorno, decisa accelerazione dunque nel braccio di ferro che da giorni si sta consumando tra il direttore del giornale e il presidente della Camera. Notizia di poco fa, Fini ha querelato Feltri in un comunicato reso noto dall'avvocato dell'ex leader di Alleanza Nazionale, l'onorevole Giulia Buongiorno. Si capisce che la querela è legata agli articoli dal titolo "Il presidente Fini e la strategia del suicidio lento, ultima chiamata per Fini o cambia rotta o lascia il popolo della libertà". Ricordiamo le forti allusioni negli ultimi articoli del giornale sull'esistenza di presunti dossier a luci rosse nei confronti dell'ambiente vicino al presidente della Camera. Altra notizia, l'apertura del ministro dell'economia Tremonti alle idee espresse sempre da Fini su immigrazione, interesse nazionale, globalizzazione e catalogo dei valori e dei principi. Se ne discuta all'interno del popolo della libertà e l'invito di Tremonti. Il capitolo Rai infine, questa sera è in programma la puntata di Porta a Porta dall'Abruzzo con la presenza di Berlusconi che tante polemiche ha suscitato. Svespa ha fatto sapere che è stato invitato per la prossima settimana anche Franceschini. Poco fa la risposta del segretario del Partito Democratico, allora ascoltiamola insieme. Comunicato a Vespa che non parteciperò alla puntata di Porta a Porta della prossima settimana. Ho letto che la mia presenza avrebbe in qualche modo bilanciato, rispettando la par condicio, la puntata in prima serata di questa sera con conseguente stravolgimento dei programmi, la sospensione di Ballarò. Io non voglio in nessun modo essere usato e rendermi complice di questa idea inqualificabile della RAI, che dovrebbe essere un servizio pubblico, di trasformare il dolore in spettacolo. Siamo stati sempre corretti, ha replicato pochi istanti fa Bruno Vespa. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. E oggi alle 15 cerimonia ad Onna per la consegna delle prime case ai terremotati, un centinaio di abitazioni realizzate con i fondi della Croce Rossa. Andiamo allora in Abruzzo con Stefano Totoro. Buongiorno a voi nostri ascoltatori. Una strada divide in due questo paese simbolo del terremoto del 6 aprile. Da un lato le case distrutte, le macerie sotto cui hanno perso la vita 41 persone, dall'altro la ricostruzione. Queste casette di legno che possono ospitare circa 200 persone, ovvero 93 nuclei abitativi. Oggi è una giornata simbolica, saranno solo 6 le famiglie che entreranno nelle nuove casette, nei prossimi giorni potranno entrare altre famiglie. E a proposito di questa parte della ricostruzione vorrei farvi ascoltare le parole di Francesco Rocca, commissario straordinario della Croce Rossa Italiana. Al momento sono 5 milioni e 200 mila euro di intervento e poi ci sono altri interventi in altre realtà che Croce Rossa sta portando avanti in collaborazione col Dipartimento della Protezione Civile. Per Onna c'è stato il vostro, diciamo, apporto economico di più di 5 milioni di euro e per il lavoro, gli operai? Noi abbiamo fatto questo accordo di collaborazione con Protezione Civile, la provincia autonoma di Trento. Noi abbiamo finanziato tutta l'opera, la provincia autonoma di Trento si è fatta carico poi dell'esecuzione, quindi diciamo c'è questo rapporto economico tra noi e la provincia autonoma di Trento che ha dato questi frutti, credo di cui tutti quanti oggi possiamo essere soddisfatti. Questi dunque i protagonisti della ricostruzione qui ad Onna. Alle 15 è previsto, come dicevate da studio, l'intervento del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi accompagnato dal sottosegretario Bertolaso già tra le casette di Onna da questa mattina. In vista di questo appuntamento il lavoro degli operai è ancora molto frenetico, è grandi il via vai di ruspe, molti anche i giardinieri per abbellire tutta questa zona e si tocca con mano anche quell'effetto mediatico che sta creando molte polemiche polemiche anche dal punto di vista politico, a giudicare dalla presenza numerosa di moltissimi giornalisti, di telecamere e quant'altro. Per il momento è tutto a voi. Grazie a Stefano Totolo. Dunque, case e piani di ricostruzione sempre più in via di definizione e di realizzazione per l'Abruzzo. Ora però serve recuperare anche il paesaggio storico. Sarà possibile grazie alla collaborazione tra l'UNESCO e il Politecnico di Torino. Smantellate le tendopoli, ora si pensa ai marmi e agli affreschi. Così, all'alba del 15 settembre, giorno della consegna ufficiale da parte del governo delle nuove case ai terremotati d'Abruzzo, L'Aquila è stata al centro di un incontro organizzato dal Ministero dei Beni Culturali con il patrocinio dell'UNESCO. Ospite d'eccezione il Politecnico di Torino. Obiettivo: dare il via a uno studio per recuperare il paesaggio storico-artistico e urbano abruzzese antesisma. Il presidente della Commissione Nazionale UNESCO, Giovanni Puglisi. È una maniera di fare da un lato il punto su tutti quelli che sono stati finora gli studi di fattibilità sul recupero e sui progetti di restauro del centro storico dell'Aquila, dall'altro a cercare di aggregare interessi, sensibilità e attenzioni su un progetto di iscrizione dell'Aquila, del suo centro storico, nelle liste dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Giovanna Boglietti, GR24, Il Sole 24 Ore. Entra oggi in vigore il decreto legge voluto dal ministro Brunetta per la cosiddetta operazione trasparenza, che obbliga tutte le pubbliche amministrazioni a pubblicare sui propri siti internet i curriculum, i recapiti, le retribuzioni annuali dei dirigenti. Entro oggi dunque tutti i dati devono essere resi disponibili, ma ci sono delle assenze eccellenti. Curriculum, stipendi e tassi di assenza dal sindaco al presidente di regione, dai capi dipartimento dei ministeri ai singoli dirigenti. Tutto deve essere messo online, è quanto prevede la cosiddetta operazione trasparenza voluta dal ministro Brunetta. La legge entra in vigore oggi, limite ultimo per uniformarsi e aggiornare i siti delle pubbliche amministrazioni. Antonio Naddeo, capo dipartimento del Ministero della Pubblica Amministrazione. Noi abbiamo circa un 30% di amministrazioni che, diciamo, hanno adempiuto. Abbiamo messo una scadenza per spingere le amministrazioni a farlo nel più breve tempo possibile. Ovviamente la scadenza è una scadenza, diciamo, indicativa, anche perché non ci sono delle sanzioni specifiche per mancato adempimento, ma comunque è un obbligo di legge. Non c'è bisogno di nessun assenso da parte né del garante né del singolo del dirigente, cioè la pubblicazione dei dati è prevista dalla legge e la circolare è stata concordata con il garante della privacy. Non tutti però sono stati solerti nel pubblicare i dati richiesti. Tra i ritardatari spiccano, oltre alle regioni Molise, Piemonte e Marche, anche la Presidenza del Consiglio e i Ministeri di Sviluppo Economico e Ambiente. Tra le grandi città, tiratina d'orecchie a Torino, Verona, Ascoli, Taranto, Catanzaro e Cosenza, mentre Milano è stata protagonista di un piccolo giallo. Il file con le buste paga dei dirigenti è stato pubblicato ieri pomeriggio e dopo alcune ore è scomparso. Un problema informatico, spiega Alessandro Usai, coordinatore comunicazione del Comune di Milano. Noi abbiamo anticipato quella deadline, come ha chiesto Brunetta nel suo decreto, cioè già da ieri pomeriggio abbiamo pubblicato online i curriculum, ma soprattutto anche le retribuzioni, le buste paga dei dirigenti comunali. Poi purtroppo in serata c'è stato un problema di server che ci ha abbandonato, quindi non c'è stata nessuna manina tendenziosa che voleva cancellare chissà cosa, ma semplicemente un problema tecnico, tanto che già nuovamente online sul sito del comune www.comune.milano.it potete trovare tutti i curricula, tutti i dirigenti comunali appunto, e anche le buste paga. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E un'altra iniziativa del ministro della Funzione Pubblica Brunetta era l'oggetto oggi del nostro sondaggio. Brunetta ha proposto: basta soldi pubblici per il cinema. Queste le vostre risposte. Il ministro Brunetta, si sa, non ama i giri di parole. Di recente se l'è presa con il mondo dello spettacolo, pieno di parassiti, testuale, che usufruiscono di soldi pubblici. Hanno ricevuto 30-40 milioni di euro nella loro carriera per fare i loro film, e quegli stessi film hanno incassato 3-4 mila euro. Perché tanto Pantalone pagava sempre a piè di lista tutte le loro follie. Da qui la proposta, il cinema si confronti con il mercato. D'altronde, affonda Brunetta, non finanziamo neppure il piano bar o la discoteca. Una proposta che i nostri ascoltatori promuovono nel sondaggio di oggi. Il 70% si dice d'accordo con Brunetta, anche se Andrea Purgatori, coordinatore di 100 autori, respinge le accuse al mittente. Noi chiediamo che il cinema venga sganciato dalla politica e quindi che non abbia questi fondi statali che ci vengono così rimproverati, perché vogliamo che il cinema italiano diventi un'industria. Bianco o Nero torna domani alle 8.30. Per votare ricordate www.radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora vi raccontiamo una storia che ci riporta indietro di 16 anni, quando moriva padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia. L'apertura di questo centro per noi è anche segno di una esplicita fiducia nella solidarietà degli uomini, che esprime, potremmo dire, la provvidenza di Dio. Il 29 gennaio 1993 padre Pino Puglisi commentava così l'inaugurazione del centro Padre Nostro, simbolo dell'impegno per il riscatto del quartiere Brancaccio di Palermo. 9 mesi dopo, il 15 settembre 1993, esattamente 16 anni fa, padre Puglisi veniva ucciso dalla mafia sul portone di casa, nel giorno del suo 56esimo compleanno. Oggi quel centro continua a dare fastidio. Nella notte tra domenica e lunedì è stata scassinata la porta del magazzino del centro sportivo, che finalmente realizza il progetto di padre Puglisi di un campo di calcetto per sottrarre i ragazzi alla manovalanza criminale. Ad essere rubati un po' di materiale edile, una cariola, qualche ponteggio. Maurizio Artale, presidente del centro. Il problema non è tanto quello che hanno rubato, ma il segno che danno, specialmente il 14 alla vigilia dell'uccisione di Puglisi, soprattutto alla vigilia della fiaccolata. Forse ci vogliono fare rimpiangere i periodi di quando c'erano i capi Rioni, ecco, perché secondo me è questo il segnale che ci vogliono dare. Questa sera alle 18 l'anniversario, che coincide con il decennale dell'apertura del processo di canonizzazione di padre Puglisi, sarà ricordato con una messa presieduta dall'arcivescovo Romeo alla presenza del presidente del Senato Schifani. Poi al centro i volontari presenteranno una canzone composta in onore del servo di Dio morto per mano della mafia. Ma il segno più importante di Certale e l'impegno di tutti. Lui ci ha creduto fino alla fine, fino a dare la sua vita. Ora, non tutti siamo chiamati a essere martiri, sicuramente, però lui diceva che se ognuno fa qualcosa non c'è bisogno che ci siano martiri, perché ognuno deve fare il suo lavoro. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Dopo il caso del detenuto tunisino morto nel carcere di Pavia, si ripropone la questione del sovraffollamento in attesa di soluzioni. Sto morendo. Con queste parole imbarca Sami Bengarsi, tunisino di 42 anni, concludeva la lettera alla madre dei suoi figli, una donna italiana, pochi giorni prima di morire nel carcere di Pavia, dopo uno sciopero della fame durato 50 giorni. I suoi compagni di cella denunciano, è stato lasciato da solo e adesso, oltre a quelle della procura di Pavia, nel carcere lombardo è stata aperta un'indagine interna. Un episodio che torna, come ce ne fosse bisogno a far parlare della situazione nelle nostre carceri. Scarsa sicurezza, sovraffollamento, caldo asfissiante, carenza cronica di personale. Gli ultimi dati parlano della cifra record di 64.000 persone in un sistema penitenziario che ne potrebbe contenere al massimo 45.000. Una proposta per rispondere al problema è stata avanzata da Enrico Sbriglia, direttore del carcere di Trento e segretario del sindacato direttori penitenziari. Le carceri galleggianti, strutture che sarebbero pronte con costi e tempi certi, 2 anni per la consegna, contro i 15 richiesti per un penitenziario tradizionale. Non la soluzione del problema, ma un tamponamento in un momento di emergenza. Enrico Sbriglia. Se c'è una situazione del genere, molto probabilmente occorrerà anche far leva un po' sulla fantasia, ma anche sulla ragionevolezza. Tra l'altro queste strutture non vanno in mezzo al mare, perché sono un prolungamento del porto, strutture senza motore che possono diventare un patrimonio da utilizzare anche in altre circostanze. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo delle pari opportunità nel mondo del lavoro tra uomini e donne, perché se ne è parlato oggi con un'iniziativa di Confindustria a Roma, un'iniziativa che non riguarda solo le imprese italiane, uno studio dunque ad ampio raggio. Ce ne parla Chiara Di Michele. Buongiorno, secondo l'indagine presentata questa mattina da Sistemi Formativi di Confindustria, la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro fa bene alle imprese perché incrementa la produttività. Lo studio ha individuato oltre 500 pratiche di promozione delle pari opportunità in 182 piccole e medie imprese italiane, europee e statunitensi. Le pratiche più diffuse riguardano la flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro, quindi l'introduzione del part-time oppure il telelavoro. Sono presenti anche altre iniziative, dall'offerta di servizi di cura della famiglia, come gli asili nido, al sostegno della donna nel suo rientro al lavoro. Queste pratiche naturalmente comportano dei costi. prossima. I benefici sono assicurati, spiegano gli imprenditori intervistati, che sono stati ripagati tra l'altro dalla riduzione del tasso di assenza e della conflittualità aziendale. Secondo il presidente dei giovani imprenditori Federica Guidi, per diffondere le best practice in tutte le aziende è sicuramente indispensabile la volontà degli imprenditori, ma il ruolo delle istituzioni è fondamentale. Questa mattina sono intervenuti al convegno i ministri del welfare Maurizio Sacconi e delle pari opportunità Mara Carfagna, che hanno assicurato che il governo sta studiando un piano d'azione che punta alla modulazione degli orari di lavoro e allo sviluppo di servizi di cura della famiglia. 13:19, nella prima parte del giornale radio ci siamo occupati della decisione del Presidente della Camera Gianfranco Fini di querelare Vittorio Feltri dopo i suoi articoli sul giornale in cui si parlava tra l'altro di dossier a luci rosse su Alleanza Nazionale, e resta alta anche la tensione attorno al caso della trasmissione TV Porta a Porta sulla cerimonia di consegna delle prime abitazioni terremotate d'Abruzzo. Il leader del PD Franceschini ha detto che non andrà alla puntata del 23 di settembre, la replica del conduttore Bruno Vespa, motivazioni pretestuose. Poi abbiamo parlato anche della scadenza oggi dell'iniziativa del ministro Brunetta sui redditi online nella pubblica amministrazione, un'iniziativa di trasparenza, ma non tutte le città, non tutte le amministrazioni sono in regola. E adesso il dato economico più importante di giornata, che riguarda il mercato dell'auto, che secondo i dati diffusi dalla CEA in Europa ha registrato una crescita del 3% ad agosto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Ancora meglio è andato il mercato italiano, cresciuto dell'8%, cresce anche la quota di mercato del gruppo Fiat in Europa, ad agosto ha raggiunto il 7,5%, ma nei primi 8 mesi dell'anno la quota del gruppo del Lingotto è salita, è stata del 9% rispetto all'anno precedente. Allora andiamo al Salone dell'Auto di Francoforte, dove c'è il nostro Andrea Malan. Buongiorno. Buongiorno. Facciamo un po' il punto, chi va bene, chi va male in questo settore, e poi anche quali sono le novità magari lì dal Salone in questo settore che sembra ormai la ripresa confermata, soprattutto grazie agli incentivi, Andrea. Assolutamente, come hai detto tu, gli incentivi hanno trainato o spinto, a seconda che dir si voglia, la ripresa, e lo si vede dal fatto che le aziende che hanno guadagnato di più in questi 8 mesi sono aziende come la Fiat, la Volkswagen o la Ford, che hanno modelli medio-piccoli e che quindi risentono maggiormente dell'effetto degli incentivi. Altre, come le case francesi o la General Motors, hanno sofferto maggiormente, vuoi per una gamma meno nuova, vuoi per, nel caso General Motors e quindi di Opel, anche per le vicissitudini societarie dell'azienda. E chi ha sofferto di più però sono quei costruttori come BMW e Daimler, che non hanno potuto giovarsi se non in misura minima degli incentivi alla rottamazione. Ora, il punto di domanda qua al Salone di Francoforte che si apre oggi per la stampa è: quanto durerà questa ripresa? Sappiamo per esempio che gli incentivi alla rottamazione in Germania sono finiti da qualche giorno, perché il governo ha terminato i 5 miliardi di euro messi a disposizione, e quindi per esempio c'è chi prevede che il mercato tedesco l'anno prossimo possa perdere addirittura un 20% rispetto al valore di quest'anno. Lo stesso varrebbe in mercati come l'Italia e la Francia nel momento in cui vengano eliminati o ridotti gli incentivi. Questo significa che, secondo alcuni, il 2010 potrebbe essere, dal punto di vista delle vendite, più difficile del 2009. A questo punto diventerà tanto più importante poter disporre appunto di gamme di prodotto nuove e soprattutto di più adatte, diciamo, ai tempi, nel senso di dotate per esempio di motori che consumino meno. Anche dal punto di vista ambientale, certo, per andare anche oltre quello che è il discorso degli incentivi. Grazie per ora ad Andrea Malan dal Salone dell'Auto di Francoforte. Adesso invece due notizie dall'estero. È stato liberato Muntazer al-Zaidi, il giornalista iracheno che, ricorderete, era divenuto famoso per avere lanciato il 14 dicembre scorso le sue scarpe contro l'allora presidente americano George Bush. Eravamo nel corso di una conferenza stampa con il presidente americano appunto a Baghdad. E poi il nodo immigrati in Europa: per affrontare il problema dell'immigrazione clandestina serve la solidarietà di tutti i paesi, ha detto oggi il commissario europeo per la giustizia e la sicurezza Jacques Barrot, il quale ha anche evidenziato che il principio del non respingimento non viene applicato da tutti i paesi in maniera uniforme e la questione andrà approfondita. Ed è lutto nel mondo del cinema perché dopo una lunga lotta contro una grave malattia è morto l'attore Patrick Swayze, aveva 57 anni, con lui se ne va un altro pezzo di anni 80. Bastano poche note e si torna agli anni di Ghost e di Dirty Dancing. Patrick Swayze era diventato famoso in tutto il mondo nel 1987, il culmine nel 91, quando era stato nominato dalla rivista People come uomo più sexy dell'anno. Dopo la morte di Farrah Fawcett e di Michael Jackson, la scomparsa di un altro simbolo di quegli anni. Ma perché questi lutti hanno segnato così tanto i fan? Lo scrittore Tommaso Labranca. Noi che abbiamo vissuto coscientemente gli anni 80, non abbiamo avuto i martiri. Chi ci ha preceduto negli anni 70, ha avuto sia i grandi del rock morti per droga, ma anche i martiri politici. Noi abbiamo avuto come destino una generazione di personaggi molto vitali, molto ben nutriti, e non morivano, perché comunque non si drogavano, lo facevano in un altro modo, non facevano eccessi, anzi cercavano di lanciare dei messaggi salutistici. Per cui a un certo punto abbiamo addirittura iniziato a inventarci le morti. La voce che era morta Jennifer Beals di Flashdance, o quando Isabella Gianni si disse che stava morendo di AIDS, lei dovette smentire. Per cui questa mancanza di riferimenti ci ha portato poi a sbalordirci, a sottolineare molto la morte effettiva di questi personaggi quando noi ormai eravamo cresciuti quasi 20 anni dopo. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport, parliamo di calcio perché la serata di oggi sarà dedicata, per gli amanti del calcio appunto, alla Champions League, con i primi incontri della fase a gironi in campo Juventus e Milan in un doppio avvincente confronto col calcio francese. Storie che arrivano da lontano, incroci con vecchi amici del nostro calcio. Rischiosa la trappola francese per Juventus e Milan al passo d'avvio dell'avventura Champions. I bianconeri ospitano il Bordeaux, già incrociato dalla Juve targata Platini nell'anno in cui la corsa in Coppa Campioni finì nella tragica notte dell'Aisel. In panchina i girondini hanno l'ex interista Blanc, in campo l'ex milanista Gourcuff. Insomma, Ferrara, privo di Diego e Del Piero e pronto a lanciare Giovinco, fa bene a non fidarsi. Noi affrontiamo una squadra che del terzo gruppo praticamente era la più pericolosa, e quindi noi ci teniamo ad iniziare bene. Il Milan va a Marsiglia, in quel velodrome che nel 1991 vide i rossoneri, che stavano perdendo in campo, ritirarsi dal terreno di gioco per volere di Adriano Galliani, causa guasto all'impianto di illuminazione. Figuraccia storica e squalifica europea di un anno, ma di tempo ne è passato, tanto che oggi Galliani può persino scherzarci su. Lo stadio è il velodrome, l'Olimpico. Sì, ma l'hanno rifatto, adesso l'illuminazione dicono che funziona bene. Sulla panchina marsigliese l'ex juventino Didier Deschamps. Sull'altra panca, a fianco di Leonardo, ci sarà Ronaldinho, pezzo d'antiquariato ormai sempre più ingombrante. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto, in studio Alessio Maurizi che ha curato questa edizione con il coordinamento di Daniele Biacchessi, regia Fabio Cantadori. Adesso arriva Buongiorno America con Stefano Pistolini. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.